d'amore, padrone non so. E pensiere pesta spina in tuo cuore, overre una speranza pitata da cuore, e overre sto occhi e belle non dice sperai mo. Sera l'amore se ne va. Se ne va l'amore.